Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, è là che ci potete scrivere, potete raggiungerci per commentare, se volete, per dire la vostra. Di che cosa parleremo oggi? Torneremo sui temi della Cina, che a questo punto si dipanano su due fronti. Da una parte Great Wall, l'azienda cinese che ieri aveva annunciato di essere interessata ad acquisire il marchio Jeep e poi in un momento successivo addirittura di acquisire l'intera Fiat Chrysler, nonostante le dimensioni delle due aziende siano talmente simili, quantomeno in termini di capitalizzazione di borsa, da far pensare ad un'operazione piuttosto difficile, oggi ha parzialmente ritrattato, sospesa in borsa e quotata alla borsa di Hong Kong in attesa di un chiarimento. Il chiarimento infine è arrivato ed è un chiarimento nel quale Great Wall, che è questa azienda cinese che produce, i cui modelli di punta sono dei SUV, che quindi avrebbe avuto l'intenzione di integrare questa sua gamma con il marchio Jeep, che però per Fiat Chrysler è un marchio molto importante, come abbiamo raccontato ieri, pone anche dei problemi dal punto di vista politico, perché Jeep è un marchio molto americano e molto sentito dagli americani, e bisogna vedere se l'attuale amministrazione americana farebbe passare un'operazione di questo genere con il principale concorrente commerciale, ossia la Cina. Comunque, si diceva, questo gruppo ha detto, noi, ve la riassumo in sostanza, abbiamo vagliato il dossier, per così dire. Non c'è nessuno studio concreto, nessun elemento concreto su questo dossier al momento, è qualcosa che abbiamo solamente vagliato e analizzato, e non c'è stato alcun contatto con i vertici di Fiat Chrysler, che è un po' quello che la stessa Fiat Chrysler ha detto ieri. Ha detto: noi non abbiamo avuto contatti con Great Wall né su Jeep né su altri elementi di business. Il tema resta però evidentemente sul piatto. Da una parte, come abbiamo raccontato ieri, per la necessità da parte di Fiat Chrysler di trovare un partner, per tutta una serie di motivi dimensionali, di necessità di mettere insieme le forze di tecnologiche, per così dire, di ricerca e sviluppo con altri grandi partner, per poter affrontare il grande cambiamento che presumibilmente sta arrivando nel mondo dell'auto. Giusto per darvi un'idea, tre settimane fa circa, la copertina dell'Economist era dedicata al fatto che probabilmente il motore come lo conosciamo adesso è destinato a finire in favore dell'elettrico. Questo giusto per darvi un'idea. Poi l'Economist a volte ci prende, a volte no, però insomma è un segnale che qualcosa si sta muovendo su questo fronte. Come si diceva, da una parte c'è la questione industriale e poi dall'altra c'è la questione di come la Cina può venire e acquistare aziende in Europa. Da questo lato, lo ha riportato oggi il Sole 24 Ore, ed era l'apertura del Sole 24 Ore, cioè questa lettera inviata dai ministri dell'industria e dello sviluppo economico, nella fattispecie per quanto riguarda l'Italia, di Italia, Francia e Germania a Bruxelles, una lettera nella quale si dice: dateci più poteri per fermare le acquisizioni, non per fermarle in assoluto, ma per poter fermare, dateci il potere di fermare le acquisizioni che possono arrivare, gli investimenti che possono arrivare da economie non di mercato. Non c'è scritto Cina in questa lettera, però è chiaro che il riferimento è quello, e bisogna vedere se la Cina si fermerà in questa fase, o meglio se le aziende cinesi si fermeranno in questa fase oppure no, e soprattutto come risponderà Bruxelles. C'è da questo punto di vista l'attesa, perché il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker anche su questo dovrebbe presentare una strategia a breve, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Altre grandi operazioni che pongono dei dubbi, se vogliamo, su come si muove l'Europa, ossia l'acquisizione da parte di Bayer dell'azienda americana Monsanto, un'operazione della quale abbiamo parlato lungamente per come è stata annunciata e per la dimensione che aveva. Era attesa per oggi, dopo un rinvio di 2 settimane, la decisione di Bruxelles su tutto questo, sulla fusione tra Bayer e Monsanto, ci sono dei dubbi antitrust molto forti, ossia di concentrazione in determinati mercati da parte della Commissione Europea, della sezione antitrust della Commissione Europea, e per il momento, solamente per il momento, bisogna chiarire che è una decisione provvisoria in attesa di ulteriori approfondimenti. Per il momento la fusione tra Bayer e Monsanto è stata fermata. Era una fusione che creava qualche preoccupazione per il mondo agricolo, perché il rischio è che si creasse di fatto un monopolista o un quasi monopolista o un dominatore di mercato assoluto in alcuni settori, come per esempio quello delle sementi, tanto per chiarire. Dall'altra parte però, insomma, ci sono concorrenti molto forti, molto agguerriti e di grandi dimensioni, e che vengono dall'estero, che vengono per esempio dagli Stati Uniti. Pensiamo solamente al gruppo Dow DuPont, che è il risultato di una fusione sostanzialmente appena avvenuta e che ha creato un vero colosso, come dire, nel settore, portiamo sempre l'esempio, tanto per dire, quello delle sementi, e quindi insomma c'è anche da contrastare il potere di gruppi così grandi, e quindi, come dire, la decisione di Bruxelles dovrà alla fine tener conto anche di tutto questo. Parleremo naturalmente di mercati. Meno 0,17% il FTSE MIB adesso, meno 0,20 il FTSE All Share, mentre Francoforte guadagna l'1,31%, Parigi lo 0,37%, Londra lo 0,83%, e l'America è positiva. Il Dow Jones guadagna lo 0,6%, lo Standard & Poor's 500 altrettanto. In una giornata che vede in cima listino Ferrari che guadagna il 2,84%, ST Microelectronics il 2,3%, Ferragamo l'1,2%, CNH l'1,06%, Prysmian l'1%, così come Mediaset, e il gruppo Fiat e Fiat Chrysler, che dopo aver fatto un nuovo balzo questa mattina, quando poi è arrivato il comunicato di Great Wall, ha ritracciato, come si dice in gergo, adesso guadagna lo 0,26%. In fondo a listino Saipem anche oggi meno 1,68%, BPR Banca che cede l'1,45%, Azimut l'1,41%, Enel l'1,08, Mediobanca lo 0,97, Banco BPM lo 0,92%. Complessivamente ci sembrano abbastanza deboli, ma la direzione non è fortissima, i bancari. Anche di banche parleremo oggi. Avevamo lasciato indietro ieri l'approfondimento dedicato proprio al sistema bancario e alle nuove regole di vigilanza che sono in arrivo da parte della Banca Centrale Europea e che ci riguarderanno da vicino, perché molte volte abbiamo sottolineato quanto la Banca d'Italia in alcuni casi è sembrato che si fosse mossa, insomma, non in maniera particolarmente veloce ed efficace per prevenire i dissesti finanziari, soprattutto delle piccole banche. Questi i temi di oggi, e veniamo alle notizie in breve. Ci arriveremo dopo. Qualcuno dice: se Fiat Chrysler non viene venduta ai cinesi, non rischia di non poter entrare nel potenzialmente ricchissimo mercato cinese anche per la futura auto elettrica? È una buona domanda. Diciamo che Fiat al momento produce in Cina, ha una joint venture con un'altra azienda che è GCA Group, produce in Cina e produce Jeep. Nell'ultimo periodo sono calate fortissimamente le immatricolazioni di Fiat, del marchio Fiat, sono cresciute in maniera molto forte quelle di Jeep, che sono passate, mi pare, dalle circa 10.000 del 2015 alle 100.000 del 2016 in Cina. Certo, sono piccoli numeri rispetto a Volkswagen, però sono numeri che al momento ci sono. Le materie prime, l'oro in calo dello 0,6% a 1283 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo il Brent a 51,6 dollari al barile, il WTI a 47,9, sotto i 48 dollari al barile. C'è un fondo, tra l'altro, visto che parliamo di petrolio, un fondo costituito proprio con i ricavi da petrolio, che è il Fondo Sovrano della Norvegia, che è il fondo più grande del mondo, il fondo sovrano più grande del mondo, con l'1,3% delle azioni sui mercati internazionali in portafoglio. E grazie all'ottimismo per la crescita economica che spinge le borse, nel secondo trimestre dell'anno ha avuto un ritorno del 2,6%, che corrispondono alla bellezza di 22 miliardi di euro. Intanto, per quello che viene considerata la fine del boom, BHP Billiton ha accolto le richieste degli investitori di vendere la sua unità di shale oil, il petrolio, la dico molto semplicemente, il sistema più complesso che però viene estratto dalle rocce negli Stati Uniti. E si sta attivamente dedicando alle opzioni per uscire dal business. La società lo ha reso noto oggi presentando i suoi risultati annuali. La multinazionale, che è anglo-australiana, è la maggiore del mondo nel settore minerario, acquistò gli asset statunitensi di petrolio e gas all'apice del boom e quando il prezzo del greggio era superiore ai $100 al barile. E quindi, come potrete capire, il business ne ha sofferto. Ci sono delle questioni che riguardano l'amministrazione americana. Come sapete, ha qualche problema in questi giorni, soprattutto nei rapporti con il mondo del business, in seguito anche ai fatti della Virginia, ma non solamente quelli. Ray Dalio, il maggiore gestore di hedge fund al mondo, ha cambiato tattica e si è messo sulla difensiva, sulla scia dei timori che le tensioni a Washington possano pesare sulla capacità del governo americano di agire e sui mercati finanziari. Dalio era inizialmente ottimista sull'impatto economico dell'agenda di Donald Trump. Di recente però i conflitti si sono intensificati, spingendo Bridgewater a ridurre il rischio. Per dare un'idea di quali sono le tensioni al momento, di qual è il livello di tensione al momento, il numero uno di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ha scritto su Twitter in occasione dell'eclissi: la luna non è l'unica cosa che getta un'ombra su tutto il paese, ne abbiamo superata una, supereremo anche l'altra. C'è da segnalare dagli Stati Uniti, come avete già sentito in GR24 nell'arco della giornata, la condanna Johnson & Johnson a pagare $417 milioni ad una donna che ha usato per anni il talco prodotto dalla società e ora è malata di cancro alle ovaie. La società ha annunciato che presenterà ricorso. Non è la prima condanna per Johnson & Johnson per questa vicenda. Dell'Europa che stoppa la fusione con Monsanto abbiamo detto e ci arriveremo tra poco. E sempre dall'Europa il dato dell'indice ZEV, che misura la fiducia degli investitori tedeschi sulle prospettive economiche in Germania, è sceso a 10 punti rispetto ai 17,5 di luglio, ben al di sotto dei 15 stimati dagli analisti. Si tratta del terzo calo consecutivo per l'indice. Ed è uno spunto interessante in un momento nel quale si parla molto di ripresa europea. Poi, ecco, ci arriveremo all'aspetto, forse oggi non è il giorno nel quale, come giusto che sia, si piangono i morti e si festeggiano i bambini ritrovati sotto le macerie. Parleremo anche del terremoto a Ischia, non lo faremo oggi, appunto lo faremo nei prossimi giorni e nelle prossime ore, dal punto di vista, tipicamente nostro, strettamente economico. La messa in sicurezza sismica dell'Italia, secondo il rapporto finale di Casa Italia, che è la struttura di missione affidata al rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone, struttura di missione di Palazzo Chigi, stima che la messa in sicurezza sismica dell'Italia abbia un costo che oscilla da un minimo di 36,8 miliardi fino a 850 miliardi a seconda della tipologia costruttiva degli edifici e della classe di rischio dei comuni in cui sono stati costruiti. Fa notare qualche geologo che per una magnitudo 4.0 i danni sono stati troppi. Noi qua ci limitiamo a ricordare che Norcia è crollata con un sisma di magnitudo 6.5, che era il più forte dal 1980 e dopo mesi di scosse e quindi di sollecitazioni sugli edifici. E quindi c'è un tema di prevenzione da una parte e c'è un tema di abusivismo dall'altro. Parliamo di un'isola nella quale dall'85, anno del primo condono, negli ultimi tre condoni, sono arrivate 27.000 richieste di condono su un'isola che ha 20.000 abitanti. 27.000 richieste di condono, di cui 7.000 accettate. E 600 edifici da abbattere. E hanno una bella forza i sindaci a fare questo comunicato nel quale dicono che non ci sono legami tra i crolli e l'abusivismo. Forse no, forse in questo caso i crolli non sono dovuti, quello sarà da vedere, sarà da analizzare, ci saranno delle procure che interverranno e vedranno quali case sono crollate e perché. Di certo le foto di come sono fatte le costruzioni che stanno girando in queste ore, le trovate sui social network, dicono moltissimo. E comunque verremo anche a questo e all'aspetto più puramente economico e chiedo perdono per lo sfogo. A proposito di investimenti esteri e non solo, il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea interventi per evitare investimenti di natura predatoria, non solo cinesi, precisa il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, il quale interviene anche su Alitalia, dice: sono arrivate offerte, i commissari le stanno valutando, includono la gran parte del perimetro, alcune un perimetro più ristretto. E poi, a proposito di investimenti che possono essere considerati da alcuni di natura predatoria, Calenda parla di TIM, dice: per il momento la palla è al comitato sulla Golden Power, che sta facendo tutte le verifiche. La Golden Power è quella norma che permette all'esecutivo di intervenire quando investitori stranieri acquisiscano il controllo di imprese considerate strategiche. Telecom avrà ovviamente tutto lo spazio per fare le sue controdeduzioni, noi vogliamo solamente che siano rispettate le regole, dice ancora Calenda. Infine, gli incentivi a Industria 4.0, 1,5 miliardi in più, annuncia Calenda, possiamo sentirlo e poi andiamo al primo tema, che è appunto Fiat Chrysler e soprattutto la questo tentativo di controffensiva italo-tedesco-francese contro i cinesi. Stiamo ragionando sul fatto di istituire un credito d'imposta potente sulla formazione, formazione delle persone che lavorano ma che devono formarsi proprio perché arriva una rivoluzione digitale che cambia profondamente le mansioni all'interno dell'azienda, e questo è il modo attraverso cui noi pensiamo si possa eliminare o comunque attenuare gli effetti negativi di una rivoluzione che ha invece poi molti connotati positivi. Ne discuteremo col ministro Padoan, quello che è certo è che stanno dimostrando che funzionano, che le imprese li usano e sono soprattutto perché sono facili e l'impresa ha la facoltà di definire su quale tecnologia puntare. Riteniamo che questo sia un percorso col ministro Padoan e il presidente Gentiloni da rafforzare ulteriormente, vedremo quali sono i numeri. Dunque, iniziamo da qua, iniziamo da Great Wall e da Fiat Chrysler. Come abbiamo detto oggi, la precisazione di Great Wall che dice è un piano allo studio, non c'è niente di concreto, non abbiamo parlato di questo con Fiat Chrysler. La cosa si sembra sgonfiarsi un po', c'è, lo abbiamo raccontato ieri, chi vede in tutto questo una sorta di giochetto per costringere General Motors ad un accordo con Fiat Chrysler. Perché? Perché gli americani non farebbero mai andare via verso il loro principale concorrente commerciale un marchio come Jeep e un'azienda come Fiat Chrysler, e insomma potrebbe essere una sorta di forzatura, potrebbe forzare GM, che finora ha detto no, a Marchionne a fare un accordo. Vedremo se sarà effettivamente così. Nel frattempo abbiamo questa notizia: Italia, Francia e Germania hanno inviato alla Commissione Europea questo documento condiviso che contiene un progetto di rafforzamento del Golden Power che citavamo poco fa, in particolare potere di interdizione verso investimenti da paesi che operano secondo regole non di mercato. Alberto Forchielli guida il fondo Mandarin, ospite piuttosto frequente di Radio 24. Alberto, ciao, buonasera. Ciao, ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, come valuti questa iniziativa dei tre paesi europei? Beh, tanto che gira. Il tipping point è stato quando i cinesi hanno comprato Kuka, che era il gioiello dell'automazione tedesco. E lì i tedeschi proprio sono andati giù di testa, perché non c'è stato modo di fermarlo, non c'erano leggi. Kuka era l'azienda che faceva perno, che era il perno del 4.0 tedesco. Un produttore di elettrodomestici cinese, Midea, ha offerto una valanga di soldi. Il governo tedesco ha cercato in tutti i modi di montare una controfferta, ma i soldi cinesi erano tanti che è riuscito, e in termini di legge non aveva nessuno strumento per bloccarlo. Lì sono girati i tedeschi, e lì poi gli italiani e i francesi sono andati appresso. Per questo, perché si sono girati e come, gli italiani non lo so, i francesi non avevano subito grandi incursioni cinesi, hanno comprato Club Med, poca roba, i tedeschi invece tanti, centinaia e centinaia di aziende, poi alla fine sono girati i tedeschi hanno già approvato qua in Parlamento un dispositivo per bloccare l'acquisizione da paesi non di mercato, e comunque secondo me è materia della Commissione, e mi risulta che anche a Bruxelles sia allo studio una cosa di questo genere. Sì. Sarebbe tipo l'equivalente del CFIUS americano. Sì, il prossimo 13 settembre, lo dicevamo, Jean-Claude Juncker dovrebbe presentare un'iniziativa per la difesa degli asset strategici, e poi bisogna vedere cosa ci metti negli asset strategici, perché come abbiamo raccontato nella vicenda TIM e Telecom Italia, per quanto riguarda nella fattispecie un investimento intraeuropeo, cioè si tratta del controllo di Vivendi su Telecom, insomma... Là è difficile capire effettivamente se sia strategico oppure no, se possa essere considerato strategico l'esercizio del Golden Power. Quindi bisognerà vedere poi che cosa ci metti, no? In questa espressione asset strategici. Nel 2016 le aziende cinesi hanno investito all'estero 244 miliardi di dollari. L'idea è che, nonostante, Alberto, la stretta arrivata dal Consiglio di Stato per settori come real estate, hotel, intrattenimento e club sportivi, data appunto dal Consiglio di Stato cinese, hanno detto alle aziende: smettete di acquistare queste cose, questa quantità di investimenti possa continuare, no? Beh, quelli strategici sì, ossia per esempio nell'auto i cinesi fanno le macchine, le automobili cinesi sembrano le macchine di Topolino. Il settore auto è un settore in cui i cinesi non hanno mai sfondato, nonostante che la Cina sia di gran lunga il più grande mercato d'auto al mondo. Per cui per Great Wall i soldi ci sarebbero, non c'è problema. Gli darebbero le banche, sostanzialmente lo Stato, perché Great Wall è dello Stato alla fine, perché è di Saint-Julien, del fondo dell'INPS cinese, alla fine è dello Stato, per cui i soldi arrivano da lì. Però... in realtà loro vogliono Chrysler, vogliono Jeep. In America c'è il CFIUS, che è un dispositivo di legge approvato fine anni 80, inizio anni 90, per fermare gli arabi che avevano comprato i porti americani. Il CFIUS può bloccare un investimento solo per ragioni che minacciano la sicurezza nazionale. Quindi allungarlo sulla Chrysler, sulla Jeep, è dura, a meno che non ci siano delle produzioni belliche all'interno della Chrysler. Sì, l'impressione, Alberto, è che questa amministrazione americana, se deve trovare qualcosa e la gabola per impedire un'acquisizione da parte dei cinesi, la trova. Non penso. No. Beh, sì, guarda Simone, l'allargamento del CFIUS è già previsto, quindi andrà in discussione alle Camere quest'autunno, e gli americani lo vogliono fare come i canadesi, perché i canadesi bloccano gli investimenti sia per ragioni di sicurezza che per se turbano l'interesse economico del paese. Quindi UK non è furbo, è inutile predefinire i settori strategici, perché in 5-10 anni cambia il mondo, capito? Come si fa a predefinire? E i canadesi dicono: io a seconda che sia sicurezza, che sia per interesse economico, blocca l'acquisizione. E questo è quello che intendono fare gli americani, e hai ragione tu. Non passa, se l'allargo in un modo troveranno il sistema per dire, oppure approveranno l'allargamento del CFIUS a sprombattuto. Guarda. Allora io ti ringrazio. Però quella roba lì non passa. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Forchielli che è alla guida del Fondo Mandarin per averci aiutato in questa lettura di quello che da alcuni viene considerato una sorta di assalto cinese. Saluto anche Andrea Goldstein, che è Managing Director di Nomisma. Buonasera Goldstein, benvenuto. Buonasera a voi, grazie mille. Per parlare con lei, per farle dare una valutazione anche su questo, sulla vicenda Great Wall Fiat Chrysler, ma soprattutto per parlare della decisione della Commissione europea di bloccare almeno temporaneamente, in attesa di maggiori approfondimenti dell'antitrust europeo, di bloccare la fusione tra Bayer e Monsanto. Lo facciamo, ma subito dopo la pausa. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da CrefoZert e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Siamo dunque, come diciamo prima della pausa, con Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma. Dunque Goldstein, prima una sua valutazione, non tanto sulla vicenda, come dire, societaria in sé, quella di Great Wall, di questa idea di acquisire Fiat Chrysler, che, come diciamo con Forchielli poco fa, potrebbe avere non grandissime speranze, soprattutto con l'amministrazione americana attuale in forza di alcune regole che ci sono negli Stati Uniti. Ma più che altro gliela chiederei proprio su quest'idea italiana, francese e tedesca di fermare, per così dire, le scorrerie da paesi con economie non di mercato. Che cosa le pare? Che cosa le sembra? Diciamo che il problema fondamentale visto dall'Europa è la mancanza di reciprocità, e negli ultimi anni tante imprese europee, per buoni motivi in molti casi, sono state acquistate da cinesi, invece per le imprese europee è molto difficile fare acquisizioni in Cina, soprattutto nei settori ovviamente strategici, ma anche in tanti settori che senza esserlo sono comunque di difficile accesso. Quindi io penso che sia benvenuta l'iniziativa del ministro Calenda con i suoi omologhi francesi e tedeschi perché la Commissione agisca. L'importante ovviamente è non buttare via il bambino con l'acqua sporca, nel senso che gli investimenti esteri di qualsiasi tipo qualcosa servono, spesso e volentieri le imprese che vengono acquisite sono imprese che hanno delle potenzialità in qualche maniera inespresse, quindi benvengano gli investimenti, benvengano quando sono stranieri e benvengano anche quando sono cinesi. L'importante appunto è non essere troppo ingenui. Sì, anche perché spesso, come accennava lei, no? C'è anche il lato positivo della medaglia, sono capitali freschi che entrano in aziende che magari sono in difficoltà proprio da quel punto di vista e non riescono a finanziarsi. Ma questa è l'esperienza che vediamo in Italia, mi permetto di fare un po' di pubblicità al mio libro uscito l'anno scorso per la Bocconi, che si chiama Il capitalismo rosso, che studia proprio gli investimenti cinesi in Italia, e da qui si evince che nella gran parte dei casi i risultati sono stati positivi. Sicuramente non ci sono stati casi di imprese italiane spolpate dai cinesi, ci sono stati alcuni casi che non sono andati particolarmente bene, ma in parte perché erano imprese che erano in una situazione veramente difficile, in altri casi ci sono stati errori del management, ma non certo e non soltanto perché il management era cinese. Quindi nel complesso penso che l'evidenza empirica sia che gli investimenti cinesi in Europa, in Italia in particolare, abbiano più effetti positivi che negativi. Infine lo chiedo anche a lei, perché magari, come dire, una nostra miopia, le sembra probabile che l'amministrazione americana possa far passare un'operazione di questo genere, cioè l'acquisizione di un marchio simbolico anche per gli Stati Uniti come Jeep da parte della Cina in questo momento storico le sembra probabile? Beh, mi sembra improbabile, questo sono d'accordo con Forchielli, perché ci sono delle considerazioni di politica, ma anche di politica industriale e di strategia industriale che suggeriscono che Trump, di tutti i presidenti, è meno incline ad approvare un'operazione di questo genere. Detto questo, la politica poi è fatta anche di segnali di breve periodo. Se i cinesi in maniera credibile volessero dire che poi, una volta acquistato il marchio FCA o la società FCA, il marchio Chrysler Jeep, sono poi disposti a investire fortemente negli Stati Uniti, io penso che il risultato dal punto di vista del consenso politico potrebbe essere differente. Quindi non sono del tutto sicuro. Sicuramente la battaglia principale, nel caso che questa operazione veramente si concretizzi e venga presentata un'offerta formale, è la battaglia fondamentale, si giocherà sicuramente negli Stati Uniti, non in Europa, tanto meno in Italia, dove, non avendo politica industriale, in fondo non ci lascia abbastanza indifferenti. La porterei sull'altro argomento, che è questo della decisione della Commissione europea, dell'antitrust europeo, di fermare almeno per il momento la fusione tra Bayer e Monsanto, aprendo un'indagine approfondita sulla situazione. La fusione darebbe vita, secondo l'antitrust europeo, alla società integrata più grande del mondo di pesticidi e sementi, mettendo insieme due concorrenti già alla guida del settore degli erbicidi non selettivi, delle sementi e tratti agronomici, oltre all'agricoltura digitale. Da una parte c'è la legittima preoccupazione dell'antitrust europeo, che fa il suo mestiere, ovviamente, che è quello di controllare che non ci siano dei monopoli o non ci siano dei dominatori di mercato che dominano troppo. Dall'altra parte, Goldstein, mi viene da dire che ci sono operatori di mercato esteri in questi settori che lavorano in Europa, sono anche di grandi dimensioni, mi viene da pensare a Dow DuPont, perché è il risultato di una fusione appunto appena avvenuta ed è interamente americana, come dire, e forse l'idea che l'Europa si possa tutelare da questo punto di vista, tutelando anche il proprio mercato o dei propri settori in questo modo, potrebbe non essere male. Parliamo sempre dell'acquisizione di un'impresa da parte di un'impresa tedesca e di un'impresa americana. Sì, diciamo che la Commissione comunque ha indagato dal punto di vista dell'antitrust anche le altre due operazioni, quella che lei citava, ma anche quella di Syngenta, che è un'impresa svizzera che è stata acquistata da ChemChina, che è un'impresa ovviamente cinese che poi è anche proprietaria di Pirelli. Quindi e del resto anche in passato la Commissione è intervenuta su operazioni che si svolgevano tra operatori di altri paesi, pensiamo soprattutto al caso quando Mario Monti era commissario alla concorrenza, dell'acquisizione di Westinghouse da parte di General Electric, che fu bloccata. È vero che sembra un po' quasi un'ingenuità dal punto di vista europeo, anche se è tutto giustissimo, è necessario difendere il diritto alla concorrenza e penare i consumatori. La stiamo perdendo, Goldstein, la stiamo perdendo. Vediamo un attimo se riuscire. Come può sospettare? In vacanza. Ci diciamo, può sembrare un'ingenuità da parte della Commissione europea. Può sembrare un'ingenuità proprio perché appunto riguarda un'impresa europea che acquista una americana, però la Commissione è intervenuta anche in operazioni bloccandole, oltretutto operazioni che riguardavano degli operatori di altri paesi. La cosa penso più interessante è che va un po', anche se appunto io sono completamente d'accordo con questa scelta, poi bisogna entrare nel dettaglio tecnico ovviamente per giustificare un eventuale blocco dell'operazione, ma la cosa interessante è che negli ultimi anni gli americani invece hanno preso una direzione molto più lasca, dire, nell'applicazione del diritto antitrust, e questo ha portato del forte consolidamento di tanti settori, oppure ha lasciato che si consolidassero fortemente i settori dell'economia digitale, dove gli americani dominano e nei quali c'è appunto una dominanza poi nei diversi segmenti da parte di una grande impresa. Quindi gli americani si sono mossi in una direzione, loro che hanno inventato l'antitrust, e noi apparentemente, comunque ci sono già segnali, ma questo è l'ultimo in questa direzione, apparentemente invece noi in Europa stiamo adottando delle politiche più rigorose. Io penso che sia giusto, penso che sia però poi interessante valutare perché gli europei scelgono una direzione, un approccio, gli americani un altro, e soprattutto cercare di avere poi a livello consolidato delle, se non delle regole comuni, quantomeno dei principi comuni, e questo è quello che si fa in particolare all'OCSE col contributo e la partecipazione anche dei paesi emergenti per arrivare a degli approcci coerenti nella valutazione delle operazioni di fusione e acquisizione. Io la ringrazio, grazie ad Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. E adesso, prima di andare ai mercati, mercati che, ve lo dico subito, chiudono per quanto riguarda Milano con un calo dello 0,11% sul FTSE MIB e dello 0,14% sul FTSE All Share. Per quanto riguarda invece le altre borse, Parigi Sud dello 0,35%, Francoforte dell'1,35% e l'America ancora positiva, andiamo a parlare di banche. Tante critiche si sono appuntate sul comportamento della Banca d'Italia in occasione delle crisi bancarie, delle banche più piccole soprattutto, pensiamo a Etruria, Banca Marche, Carige e via dicendo. Banca d'Italia che si è sempre difesa con energia, dicendo i nostri poteri sono questi, questo è quello che potevamo fare. E ora ne ha scritto Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che è in studio con noi. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera agli ascoltatori. E ora dal 2018 arriva un, per così dire, supplemento di vigilanza da parte della Banca Centrale Europea, nel senso che i criteri che sono stati applicati finora per verificare la solidità patrimoniale dei grandi istituti bancari europei verranno applicati anche ai piccoli istituti. Il fronte è interessante tanto per quanto ci riguarda quanto, Marco, mi viene da pensare, perché ne abbiamo parlato all'infinito di questo tema, per le banche tedesche, le piccole banche tedesche. Sì, è così. Di fatto è il secondo atto, la seconda fase 2 della vigilanza comune europea, che è iniziata 2 anni fa, correggo, 3 anni fa, il tempo vola, era novembre 2014, assegnando a Francoforte, quindi la Banca Centrale Europea, competenza diretta sulle banche che hanno più di 30 miliardi di attivi, quindi parliamo di circa 125 banche. Invece la competenza, quindi la vigilanza sulle banche più piccole, che sono più di 3.000 in Europa, di cui circa 500 in Italia e più di 1.000 in Germania, e questo è proprio quello che accennavi prima, la competenza su questi istituti minori è rimasta in capo alle autorità nazionali, che in questi primi 3 anni di fatto hanno avuto indicazioni abbastanza generiche sul tipo di vigilanza da portare avanti. Invece dal prossimo anno sarà la BCE a coordinare, e quindi dettando di fatto delle prassi comuni. Ogni singola banca nazionale, quindi Banca d'Italia, la Bundesbank eccetera, avrà degli spazi di proporzionalità, quindi potrà in qualche modo interpretare quei criteri a seconda delle singole banche, perché è chiaro che in quel campione di 3.000 banche si va dalla banca monosportello, dalla BCC monosportello, a banche, non so, pensiamo Banca Mediolanum, che per dire in Italia è la più grande tra quelle che fanno parte di questo gruppo. Quindi inevitabilmente le regole andranno adeguate a chi si ha di fronte, però in ogni caso i principi saranno comuni, e quindi è logico immaginare che qualche nodo possa venire al pettine. Ho un'altra domanda per te, quella che riguarda soprattutto le banche tedesche. Quali preoccupazioni dobbiamo nutrire per le nostre? Ma dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da Crefozert e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. E dunque, sempre con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Dunque Marco, dicevi che è prevedibile che qualche problema emerga, insomma, noi di quel che è successo nelle nostre banche in parte lo abbiamo visto, è presumibile che qualcos'altro esca. Qualche ascoltatore qua ci dice: non preoccupatevi che i tedeschi metteranno al sicuro anche le piccole banche prima che Draghi possa dire una sola parola. Là abbiamo detto che rischiano di annidarsi molti problemi, no? Sì, l'ascoltatore è informato, nel senso che indubbiamente il sottobosco delle banche piccole e medie è particolarmente problematico nei paesi di tradizione tedesca, quindi appunto la Germania e l'Austria anche, che ha un numero di piccole banche molto elevato, proprio perché c'è un grandissimo numero di banche con anche partecipazioni piccole, le partecipazioni pubbliche, sono le famose Landesbank, laddove appunto si è sempre l'impressione che la vigilanza sia sempre stata non diciamo permissiva, ma comunque abbia tollerato interventi pubblici. Famoso il caso della banca tedesca HSH, per cui si è di fatto tollerato un reiterato sostegno pubblico. È chiaro che con questa unificazione dei criteri è possibile che ci sia appunto maggiore omogeneità. Non a caso mi ha scritto qualche giorno fa il presidente dell'ABI, Patuelli, ci ha detto: benissimo, regole comuni noi le chiediamo da tempo. Diciamo che questa volta l'auspicio è che non per forza le italiane debbano essere le ultime della classe. Non peraltro l'anno scorso, tu citavi prima le critiche a Banca d'Italia sulla vigilanza, più che logiche visto l'accaduto, però l'anno scorso quasi in un'ottica diciamo difensiva, da Via Nazionale sono arrivati i risultati per la prima volta pubblicati dell'attività di vigilanza condotta proprio sulle banche piccole e medie, da cui emergeva complessivamente uno stato di salute migliore di quelle grandi. Di nuovo è la media del pollo, quindi sicuramente ci sono casi di crisi, non per niente c'è sempre qualche banca in diciamo commissariate, sono solitamente le più piccole, però se la media ha un senso, evidentemente forse appunto questa volta rischiamo di non essere gli unici a doversi preoccupare. Grazie dunque a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Andiamo a chiudere questa puntata di Focus Economia, che nella sua versione estiva, come sapete, dura solamente un'ora, dalle 17 alle 18, parlando finalmente di mercati. Chiude negativa Milano, FTSE MIB meno 0,11, FTSE All Share meno 0,14%, in un quadro europeo in realtà complessivamente positivo, con Londra che sale dello 0,86%, Parigi dello 0,35%, Francoforte dell'1,35% e un buon andamento di Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,71%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,79%. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Ciao, buonasera Andrea. Buonasera a voi. A cosa dobbiamo la performance negativa di Milano rispetto alle altre? Ma soprattutto all'andamento dei bancari che hanno sofferto e portato chiuso quasi tutti in rosso a Milano e hanno così fatto differenziare la performance, anche se ci sono state altre flessioni eccellenti, a cominciare da Saipem, che è stata penalizzata da un report negativo da parte di una casa di investimento e anche da parte di qualche titolo pesante sull'indice come Enel e Eni, ma certamente più che altro i bancari che si sono un po' innervositi sia sul movimento che ha fatto lo spread dopo la diffusione dell'indice tedesco sulla fiducia nelle prospettive dell'economia tedesca, lo spread si è allargato a 170 punti base, sia nella prospettiva dei prossimi giorni, che sono una prospettiva soprattutto focalizzata sulle banche centrali. Domani ci sarà un intervento di Draghi a un evento pubblico, un meeting delle scienze economiche in Germania, e poi ci sarà il simposio di Jackson Hole con intervento di Draghi e di Janet Yellen venerdì, è probabile che Draghi non apra ancora la porta alla riduzione del quantitative easing, e questo ha fatto soffrire un po' le banche un po' in tutta Europa, ma in particolare a Milano. Per quanto riguarda i singoli titoli, di Fiat Chrysler abbiamo parlato in apertura, l'abbiamo detto, c'è stata la presentazione di Great Wall che dice, il progetto di acquisire Fiat Chrysler non è così concreto, ma abbiamo studiato la cosa, non abbiamo avuto contatti, ha fatto un balzo all'inizio, un più 3% stamattina, poi è arrivato il comunicato e alla fine chiude con un più 0,26%. Ferrari. E Ferrari è stato molto, molto brillante, a differenza dei movimenti che hanno caratterizzato il resto del gruppo, dei titoli Exor, Agnelli, di quella galassia. È stato un movimento che si è rafforzato con l'andamento del dollaro, tant'è che in prima fila sul FTSE MIB troviamo, appunto, per usare un termine anche automobilistico, oltre a Ferrari anche gli altri titoli delle società più esposte verso il dollaro: ST Microelectronics, CNH Industrial, Prysmian, Campari, proprio perché il dollaro è stato uno dei protagonisti della giornata, ha messo a segno una buona rimonta, circa mezzo punto percentuale nei confronti delle principali divise, soprattutto quando dagli Stati Uniti sono arrivate indiscrezioni sul fatto che la riforma fiscale promessa da Trump starebbe facendo dei passi avanti. E poi, per quanto riguarda Ferrari, c'è stata anche una notizia appunto sportiva con il rinnovo del contratto di collaborazione anche per la stagione 2018 con il pilota Kimi Raikkonen, che insieme a Sebastian Vettel costituisce la coppia delle rosse sui circuiti di Formula 1, quindi una notizia più sportiva, ma poi la questione del dollaro è stata quella che ha pilotato l'andamento di Ferrari in borsa. Come si diceva, giù le banche: BPR Banca meno 1,33, BPM meno 1,10, Mediobanca meno 0,97%, Intesa San Paolo meno 0,7%, UbiBanca giù di mezzo punto percentuale, FinecoBank che cede lo 0,34%, questo complessivamente per quanto riguarda le banche, e negativi anche i finanziari nel complesso. Negativa anche oggi Saipem, che cede l'1,86%. Per quanto riguarda i titoli positivi, oltre a Ferrari abbiamo ST Microelectronics, CNH, Ferragamo, Prysmian. Questi rialzi sono collegati tra loro in qualche modo? Come dicevo, principalmente per l'esposizione al dollaro che ha un po' caratterizzato un po' la giornata, soprattutto il recupero pomeridiano delle borse che ha visto molte società esportatrici beneficiarne, visto che ieri ancora il rapporto euro-dollaro era tornato sopra quella soglia di 1,18 che stiamo vedendo come soglia massima di rafforzamento dell'euro nelle ultime settimane. L'allentamento di questa soglia ha favorito gli esportatori e ha parzialmente compensato quello che è stato il rosso del settore finanziario, che ha interessato le banche ma anche le assicurazioni, perché anche le generali sono state a lungo tra i peggiori titoli del listino, poi hanno perso lo 0,7%. Un ascoltatore ci chiede, un po' dall'inizio della trasmissione, come stia andando il cambio tra euro e dollaro. Qualcosa ha accennato il nostro Andrea Fontana, è a 1,17,64, quindi in lieve rafforzamento il dollaro questa mattina rispetto all'euro. Ci segnala questo stesso ascoltatore una qualche discrepanza tra i dati che vede per quanto riguarda rialzi e ribassi degli indici, e i nostri li ripetiamo: un calo del FTSE MIB dello 0,11%, Parigi che guadagna lo 0,35%, Francoforte l'1,35%. Si chiude anche qua, e ringrazio Andrea Fontana di Radio Cori Sole 24 Ore, come sempre tutti i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore per gli aggiornamenti di mercato. Si chiude qua questa puntata di Focus Economia. Ringraziamenti a Roberta Frisani in regia, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17:00.